Sicuramente Erdogan rispetterà le attese dell'Unione Europea per quanto riguarda una riforma sulla democrazia nella Turchia, che vediamo quotidianamente impegnata a portare queste riforme. Intanto ha voluto per la Svezia nella NATO i prigionieri curdi, e già questo è un messaggio. Per quanto riguarda la realtà dell'Unione Europea, che chiaramente è una richiesta unicamente per motivi economici, altro messaggio: ha liberato quei bravi ragazzi nazifascisti dell'Azov. Quindi vediamo se dopo questi segnali, che danno, tra virgolette, scusate l'ironia, una certa sicurezza, il percorso verso un aspetto di democrazia, sarà certo con una distesa, veramente un'autostrada a quattro corsie. Medeged no. No, è che sono tante le contraddizioni fra le bombe a grappolo, le famose cluster bomb, crimini di guerra, fra quello che vediamo nella richiesta ucraina di entrare nella NATO, tutti i percorsi che abbiamo visto finora, e poi ovviamente tanti gli aspetti che portano motivo di oltre che preoccupante riflessione. Secondo me non ultimo anche questo strano messaggino che è arrivato da chi, punto di domanda. Ma farsi troppe domande, sapete, da complottisti, no? Negazionista del clima, tante cose che possono portare motivo di gravissima critica se ti stacchi un attimo dalla voce unica di informazione. Hai voglia, Novax, e poi cosa c'è ancora? Ma tanti, terrapiattista, scie chimiche, hai voglia. Ma questa è Altri Suoni, visto che avremo modo poi di approfondire con redazione giornalistica, rassegna stampa, tanti contenuti. Ora parliamo di musica, altra musica. Ho guardato nel mobilone dei CD e ho osservato, ma io non ho mai portato negli ISO 68, la prossima puntata faremo i Pulse Programming. Ecco, due formazioni che sono frettolosamente inserite nella realtà post-rock. Secondo me è un'eterogenea espressione di contemporaneità fra l'elettronica, l'ambient, le sonorità strutturate tra l'acustico e allo stesso modo l'elettronica, che oltre ad avere anche motivo di ricerca in certi aspetti hanno anche un grande gusto. Ho portato un mini LP 12 pollici per aprire questa piccola playlist. Loro sono ISO 68, è una sigla che da elettricista mi ha dato qualche sospetto. IP55 è il grado di tenuta stagna di un materiale o di un supporto per l'elettrotecnica. Ecco, invece, per quanto riguarda ISO 68, ISO 68 è una scala di valori, mi pare, per quanto riguarda gli oli lubrificanti, e non vorrei in questo modo certo dare delle indicazioni sbagliate, però hanno questo nome abbastanza particolare, molto esoterici loro. Iniziamo quindi con questo lavoro UFO, titolo molto nello stesso modo misterioso per l'LP, mini LP che ho portato, Underwood. Loro sono gli ISO 68 e sentirete come sono cresciuti, come sono diversi. Questo è stato uno dei loro primi lavori. Questo mini LP sicuramente è uno dei loro lavori più strutturati, allo stesso tempo più di ricerca, tra i meno leggibili. Arriverà un disco molto particolare subito dopo per la label House Music, un lavoro che sarà apprezzatissimo dagli addetti ai lavori. Sono quei dischi che non hanno successo di pubblico, ma hanno chiaramente una grande risposta nel mondo, chiamiamo, degli addetti ai lavori. Il disco esce nel 2006, la label per la quale loro hanno continuamente pubblicato è la House Music. Il disco si chiama semplicemente Here There ed è il lavoro che vi propongo, Cosmic Bones. Dà veramente una svolta al lavoro degli ISO 68, dove questo glitch, dove l'ambient, se vogliamo anche più in questo caso comprensibile, porta la parte di aspetto gusto, ma allo stesso modo l'originalità non manca per la continuità nella ricerca. Cosmic Bones dal disco Here There, ISO 68. Thank you. apparentemente minimale, il ritmo ha svoltato completamente con una scrittura musicale oltre che una richiesta di ascolto paziente. Ecco, questo ho messo nella guida all'ascolto. Invita alla pazienza la musica degli ISO 68, non tanto per la sua chiamiamola difficoltà, perché non è affatto difficile, tutt'altro, anzi è curiosità e voglia di ricerca essere accompagnati in questo giardino di piccoli glitch che si strutturano in maniera completamente diversa nello sviluppo del brano. Questo disco di cui ascolteremo, magari andremo un pochettino oltre, a me loro piacciono tantissimo, ma questo l'avete già intuito. Tra l'altro, Here There, che ho presentato come un disco molto particolare, per me bellissimo tra l'altro, ma che ha avuto una grande attenzione dagli addetti ai lavori. Mascia Crella dell'Amor Music ha remixato questo lavoro, i Calexico hanno interpretato questo lavoro, Corker & Convoy per la Vertical Form ha interpretato il lavoro che stiamo ascoltando. Tra l'altro, su queste note, se magari vi sono rimaste un pochettino nella vostra paziente attenzione, vi propongo il brano come è stato rielaborato da Mascia Crella, perché questo disco Here There è stato, come ho detto, played by, suonato da, quindi vi è un disco chiaramente originale, un altro altrettanto originale, ma su ispirazione di altri artisti. Questa è Mascia Crella che reinterpreta il lavoro Cosmic Bones che abbiamo sentito prima. Loro godono di un rispetto incredibile, e lo credo bene, da parte dei colleghi. Per la vostra pazienza, ovviamente, per la possibilità di esprimere anche questa sonorità che difficilmente ascolterete in frequenza, in altre frequenze. Ma Masha Krella per ISO 68, il progetto di Masha Krella è per la More Music, ISO 68 è la House Music. Concludiamo con un disco, appunto quello di cui vi ho dato nell'originale presentazione, quello che secondo me merita di più degli ISO 68. Ascoltiamo un ultimo brano che ci porta alla conclusione di questa puntata di Altri Suoni all'interno del Breakfast Club, di solito il martedì, ma è abbastanza imprevedibile come la giornata stessa, appunto. Diffusion Caprice, il brano che vi sto proponendo, ci accompagnerà alla pubblicità e rientreremo con lo Youth Basketball, gli oriundi, la loro storia, l'importanza e ovviamente gli oriundi più famosi nel basket che conta, chiamiamolo poi così. Avremo anche qualche divagazione tra pochissimo sui 103.1, il Moved Groove del martedì. Thank you.